falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. La puntata che vi riproponiamo oggi è una di quelle puntate difficili, commoventi da un lato, però complessa intanto perché non si balla, non si canta, non si parla di musica, di cinema, di teatro, di sport, non si parla di vittorie, e i colpi d'ala che noi tratteremo oggi sono dei colpi d'ala che hanno segnato un paese, un sistema e hanno segnato la storia, perché noi oggi parleremo della terribile fine di una giovane vita che si immola sull'altare del bene più prezioso dell'umanità, che è la libertà. Eh sì, la storia, lo sappiamo, è costellata di sacrifici, di eroi che hanno perso anche la loro vita in nome dei loro ideali. Alcuni di questi eroi ci fanno più effetto di altri, forse per la giovane età, forse per il modo in cui perdono la vita, forse perché ci sono più vicini geograficamente e anche cronologicamente. E stiamo per raccontare una storia che ha colpito, che ha devastato il pensiero, la coscienza di tutti, l'opinione pubblica. Il protagonista di oggi è un ragazzo che ha commesso un gesto estremo, quello di togliersi la vita, non per la disperazione, non per il desiderio di morire, anzi, il suo grande amore per la vita lo ha in qualche modo indotto a privarsene per dare una vita migliore o per provare a dare una vita migliore a tanti altri ragazzi come lui. Noi oggi vi riproporremo la storia di Jan Palach, il cecoslovacco, il ventenne studente cecoslovacco che per protesta contro l'oppressione del regime sovietico nel suo paese, siamo nell'agosto del 1968 quando i carri armati russi entrano a Praga, lui si toglie la vita proprio nel cuore di Praga, nella piazza Venceslao, che in qualche modo era il centro pulsante ideologico e affettivo di tutta una città. Lui diventa una torcia umana e quella torcia brucia muovendo le coscienze di tutto il mondo. L'obiettivo era mantenere viva quella che è sempre stata la fiamma della libertà. L'umanità è sulla strada sbagliata. La sua esistenza è nelle sue stesse mani, ma occorre lottare per il suo futuro. Altrimenti le forze enormi che l'uomo ha prodotto finiranno per annientarlo. Solo un'umanità consapevole, consapevole di sé come insieme, è in grado di risolvere i contrasti fondamentali della società contemporanea. Soprattutto è necessario creare un sistema di valori che siano riconosciuti universalmente. E queste non sembrano le parole di un ventenne, se pensiamo a quello che abbiamo in mente oggi per ventenni. Questo è il passaggio di una lettera che fa parte di una grande quantità di scritti che Jan Palach ha lasciato. Rivela la profondità del suo pensiero, una sua analisi molto lucida della situazione sociopolitica che vive la Cecoslovacchia, ma tutto un mondo, il mondo oltre cortina in quegli anni. Naturalmente altri hanno già raccontato la storia di Jan Palach e del suo terribile gesto avvenuto il 16 gennaio 1969. Ci sono manifestazioni in suo ricordo, trasmissioni sono state fatte su di lui. Oggi noi vogliamo raccontare soprattutto la sua storia e far capire bene a chi non la conosce questa storia che Jan Palach non era un esaltato, non era un kamikaze indottrinato da un ente politico, non era un incapace di intendere di volere, non è stato il risultato di una manovra di menti influenzabili e di menti che influenzano, come vediamo oggi in quelli per esempio dell'ISIS. Il suo è stato un gesto personale, ragionato e motivato in maniera accurata da scritti e da testimonianze dirette. Eh sì, perché non bisogna fraintendere o interpretare male il gesto di Jan Palach, sarebbe come farlo morire una seconda volta. Bisogna capire chi è, e di questo si è parlato poco, bisogna capire in quale realtà cresce, da che famiglia proviene, cosa studia, cosa legge, cosa sente dire in giro. Allora abbiamo bisogno di un uomo che conosca molto bene la Cecoslovacchia, la realtà di quella Cecoslovacchia in quegli anni, perché all'epoca dei fatti lui era lì come docente, oggi è docente di lingue letterarie letteratura ceca all'Università Ca' Foscari di Venezia. Stiamo parlando del professor Sergio Corduas. Arrivai come già parlante, diciamo, cioè uno che capiva, insomma, e poteva parlare con la gente. La prima cosa che mi colpì, ma questo forse parliamo del 65, diciamo, 66, fu la spoliticizzazione completa di quella gente. Questo era l'effetto che aveva ottenuto il regime e la sua propaganda, diciamo. E quindi tanto più mi colpì poi la rapidissima ripoliticizzazione a partire da prima del gennaio del 68, in pochi mesi, quel movimento che fu iniziato, lo vorrei ricordare, da una parte della dirigenza del Partito Comunista Cecoslovacco, ma che prese subito piuttosto piede, diciamo, nelle masse. Eh sì, è importante, politicizzazione e ripoliticizzazione, perché prima c'è l'indottrinamento continuo e massiccio del regime comunista e poi c'è una presa di coscienza da parte di tutta la gente, ed è la famosa primavera di Praga. Ma torniamo a lui, a Jan Palach. Nasce l'11 agosto del 48 a Vsetaty, che è un paesino a 40 km da Praga. Il padre è un piccolo imprenditore, un pasticcere. Il risultato del comunismo e del dominio sovietico è che il padre viene obbligato a chiudere la sua azienda privata e impiegarsi in una società statale. Questo è il comunismo. Josef Palach, il padre, obbedisce ovviamente, ma matura in lui un forte sentimento libertario, quindi anticomunista, che trasmette ai due figli, Iri il maggiore e Jan, che ha 7 anni meno del fratello. Vedere suo padre e la sua famiglia derubati da quello che era stato costruito con fatica per tutta una vita matura nel piccolo un senso di insofferenza a ogni forma di privazione della libertà. È lo stesso profondo sentimento che lo conduce a 20 anni verso il suo tragico gesto di ribellione. Il falco e il gabbiano. E così Jan Palach, il nostro protagonista, cresce in un clima di grande, di fervente anticomunismo, di voglia di libertà, di patriottismo. È un ragazzo riflessivo e studioso, a differenza del fratello, che invece è più uno sportivo. Lui è appassionato di letteratura, di storia. A 16 anni ha già letto la Bibbia e il suo sogno è iscriversi alla facoltà di filosofia, però il direttivo comunista decide per lui niente filosofia, economia, perché al paese servono economisti e non filosofi. Lì funzionava così, deve obbedire. Si trova addirittura a essere mandato in un campo di lavoro in Unione Sovietica, cosa che accadeva spesso in quegli anni ai ragazzi cecoslovacchi. Lui scrive a sua madre, critica aspramente, ovviamente, quel tipo di sistema terribile, la disorganizzazione, l'assurdità delle imposizioni, e racconta anche della paura che colpisce gli stessi sovietici, prime vittime della tragedia. Sono sorpreso e preoccupato per la sensazione di paura e apprensione che c'è tra la gente comune. Pensa che un mio conoscente ha acceso la radio a volume molto alto mentre parlavamo. Le autorità sovietiche cercano ostinatamente di isolare la propria gente dal resto del mondo eretico, di cui anche noi facciamo parte. Eh sì, io mi ricordo i primi viaggi in Unione Sovietica negli anni Ottanta, quando mi fermavo a parlare con la gente, arrivavano i poliziotti a vedere che cosa ci stavamo dicendo, a cercare di mandarli via. Cioè il contatto tra loro e noi era proibito, era sgradito quantomeno. Ma torniamo a lui, Jan Palach, che fin dal ginnasio ha una passione particolare: collezionare ritagli di giornale, articoli sulla guerra in Vietnam, sul Sudafrica, sull'attentato a Kennedy. E lui ricopia le frasi dei grandi statisti su dei fogli che appende in camera, ne regala uno alla madre che lo incolla in cucina. Non basta avere grandi idee, bisogna anche saperle proporre e metterle in pratica. Lui è informato su tutto, per quanto sia possibile informarsi in quegli anni sotto quel regime, ha una sua opinione ben precisa, si confronta con gli adulti, col padre, con i professori. È un ragazzo che sembra più grande della sua età, a volte i suoi coetanei lo prendono in giro perché ha un tale candore nell'esporre le sue idee che sembra fuori dal tempo. Insomma, Jan Palach è un puro idealista. Poi arriva quella che sembra la fine di un incubo, la primavera di Praga, la liberalizzazione politica della Cecoslovacchia dall'ingerenza sovietica, una ventata di aria fresca e un mondo di speranza. Ne abbiamo già parlato più volte, anche quando abbiamo raccontato la storia di Zatopek, per esempio. Insomma, tutti i cecoslovacchi, specialmente i più giovani, hanno accolto con speranza l'arrivo del nuovo capo del Partito Comunista, Aleksandr Dubček, e il suo socialismo dal volto umano. Lui è molto attento, Jana, agli spazi di libertà che stanno nascendo col nuovo corso, perché cominciano a nascere degli incontri, assemblee. Lui è uno studente, ma è molto impegnato, è un bel periodo per lui, è contento e intanto è riuscito a iscriversi, a realizzare il suo sogno, iscriversi a filosofia all'Università di Praga. E insomma inizia a godere del volto più umano della società che si sta rinnovando, che guarda anche all'individuo, alle sue inclinazioni, alle sue capacità, alle sue possibilità. Sembra la fine di un incubo. E la elezione di Aleksandr Dubček alla guida del Partito Comunista Cecoslovacco nel gennaio del 68 viene considerata il più ampio e meditato tentativo di riforma che mai fosse stato attuato da un regime comunista. In un primo tempo i sovietici cercano di frenare le riforme per via diplomatica, ma il governo di Dubček è molto fermo e il popolo capisce che è l'occasione per farcela, per tornare alla libertà. Bene, di fronte a un intero popolo, i russi non possono che schierare i carri armati. E la notte tra il 20 e il 21 agosto del 68, a soli 7 mesi dallo sbocciare della primavera di Praga, arrivano i carri armati russi e di tutti gli alleati del patto di Varsavia. È un'operazione in grande stile. 500.000 uomini e 7.000 mezzi corazzati entrano nel territorio ceco per occupare un paese di 14 milioni di abitanti, quindi un soldato armato ogni 28 persone, compresi vecchi e bambini. È la repressione della primavera di Praga, la più ampia operazione militare in Europa dal termine della Seconda Guerra Mondiale. Jan Palach ha 20 anni e ci aveva sperato in quel cambiamento, come tutti i ragazzi aveva pensato che le catene potessero spezzarsi, e lui si aggira tra i soldati russi che affollano la piazza San Venceslao, che è il cuore pulsante di Praga. Ci sono donne con le buste della spesa che osservano i carri armati che sfilano per le vie della città, ci sono uomini, ragazzi, anziani che cercano di parlare con i soldati russi, che sono anche loro naturalmente delle vittime. E nel giro di poche ore Dubček viene preso e viene condotto a Mosca, obbligato a firmare un accordo di resa incondizionata. Ricordiamoci che l'invasione era stata giustificata come gesto per combattere la controrivoluzione. Avviene quindi quello che viene chiamato il processo di normalizzazione sovietico, riporta la situazione a prima della primavera di Praga. E è l'inizio di un'altra tragedia epocale, della quale ovviamente qua si parla pochissimo in Italia. È un esodo, 70.000 ciechi scappano, ce la fanno, e alla fine saranno in 300.000 quelli che lasceranno la Cecoslovacchia, che rimarrà sotto il dominio comunista fino al 1990, con la fine del comunismo, con la caduta del muro di Berlino. Jan Palach è tra quelli che rimangono, che non se ne vanno, subisce nuovamente il gioco sovietico, e lì si capisce subito che l'Occidente non avrà la forza di aiutare quella povera gente. Lui sente che bisogna fare qualcosa. Il 6 gennaio del 69 scrive una lettera al leader studentesco Lubomir Holecek. Propongo un gesto che a prima vista può sembrare folle, e forse lo è. Al posto di altre manifestazioni, mi sembra più utile ed efficace occupare la sede della radio e diffondere da lì un appello allo sciopero generale per l'abolizione della censura e a favore dei sostenitori di Dubček. L'azione dovrebbe essere compiuta da un piccolo gruppo e solo successivamente intorno all'edificio della radio si dovrebbe raccogliere l'intera massa degli studenti. Ma Holecek non ha il coraggio di rispondergli. Così l'appello accorato di Jan Palach, la sua convinzione che si debba fare qualcosa di concreto, cade nel nulla. Lui sente su di sé una responsabilità immensa, capisce che è venuto il momento di compiere un colpo d'ala terribile, perché quelle ali stanno per prendere fuoco. Capisce che deve compiere qualcosa di eclatante, scuotere la gente, richiamare sulla situazione della Cecoslovacchia agli occhi di tutto il mondo. E ha preso la sua decisione, qualcosa che lui sente di dover fare a tutti i costi, anche se pagherà un prezzo altissimo, il più alto di tutti, la sua stessa vita. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando una meravigliosa e tragica storia, la storia di un eroe, di un patriota cecoslovacco, di un ragazzo di 20 anni, Jan Palach, simbolo della resistenza antisovietica e anticomunista del suo paese. Un ragazzo che si immola sull'altare del bene più prezioso che un essere umano deve avere e difendere, la libertà. Lui è deluso dal fallimento della primavera di Praga, dal tentativo del capo del partito Aleksandr Dubček di avviare un'era di riforme autonome rispetto al giogo sovietico. Bene, lui che a 20 anni sente di dover fare qualcosa di concreto per il suo paese, prova a coinvolgere altri studenti come lui in un appello allo sciopero generale di tutta la popolazione e a occupare la sede della radio di Praga. Non riceve nessuna adesione. A quel punto decide di compiere un passo privato, personale, un passo che faccia parlare tutti, che attiri l'attenzione non solo del suo popolo ma del mondo intero. Vuole fare qualcosa per scuotere il suo paese dal suo torpore e dalla sua rassegnazione. Così la mattina del 16 gennaio 1969 Jan Palach si reca alla sua università, scrive 4 lettere. La prima all'Unione Scrittori, la seconda al leader studentesco Lubomir Olecek, che è quello che non gli aveva risposto all'altra lettera, una a un suo amico che si chiama Ladislav Zizka, e una quarta la conserva con sé nel suo zaino. Va in centro, imbuca le prime 3 lettere, si ferma a mangiare un boccone e poi dà il via al suo piano. C'è un negozio lì vicino e si procura del liquido infiammabile, lo mescola della benzina, poi va verso la fontana che si trova alla base della scalinata del Museo Nazionale, quella che si affaccia sulla piazza Venceslao, che è il cuore di Praga. È una fontana che purtroppo d'inverno non funziona. Appoggia il suo zaino a terra, si toglie il giaccone, prende la tanica con la miscela che ha creato, si cosparge il corpo e beve anche alcuni sorsi e poi si dà fuoco. È una torcia umana che si contorce, la gente che sta attraversando la piazza viene attirata dalle sue grida strazianti. L'autista di un autobus scende, corre in suo aiuto, gli getta la giacca nel disperato tentativo di spegnere le fiamme e salvarlo. Qualcuno ha chiamato un'ambulanza che arriva subito. L'ospedale Legerova è solo a 500 metri dalla piazza. Jan è caduto a terra, è completamente carbonizzato ma è cosciente. Mentre lo trasportano all'ospedale continua a ripetere al personale sanitario che non voleva suicidarsi. Lui si è dato fuoco, come fanno i monaci buddisti in Vietnam, anche loro guarda caso, per protestare contro quel regime, per protestare con quello che succede nel suo paese, contro la mancanza di libertà di parola, di stampa. Si raccomanda che venga letta la lettera che ha conservato nel suo zaino. Poiché i nostri popoli sono sull'orlo della disperazione e della rassegnazione, abbiamo deciso di esprimere la nostra protesta e di scuotere la coscienza del popolo. Il nostro gruppo è costituito da volontari, pronti a bruciarsi per la nostra causa. Poiché ho avuto l'onore di estrarre il numero 1, è mio diritto scrivere la prima lettera ed essere la prima torcia umana. Noi esigiamo l'abolizione della censura e la proibizione di Spravi, il giornale delle forze di occupazione sovietica. Se le nostre richieste non saranno esaudite entro 5 giorni e se il nostro popolo non darà un sostegno sufficiente a quelle richieste con uno sciopero generale e illimitato, una nuova torcia si infiammerà. Firmato la fiaccola numero 1. Quindi Jan Palach nella sua lettera fa supporre di essere parte di un'organizzazione articolata e pronta a agire nuovamente. In realtà intanto non è mai stata trovata traccia di questa organizzazione, si sono sparse voci, si è parlato addirittura di un sorteggio nel quale Jan Palach fosse stato scelto tra tanti che si proponevano. E la verità è che Jan Palach era un caso isolato di un libero pensatore che rappresentava il suo popolo ma che agiva per conto suo. Il ragazzo arriva in ospedale, le condizioni sono disperate, ha ustioni del terzo grado sull'85% del corpo, naturalmente la sua sofferenza è terribile, eppure mantiene la lucidità, è cosciente, riesce perfino a parlare con i medici. Immediatamente la notizia arriva alla polizia sovietica, che fa mettere dei microfoni sotto al letto e ordina all'infermiera di trascrivere tutto quello che dirà il malato. La notizia fa il giro del mondo, viene manipolata subito, si dichiara che uno squilibrato ha tentato il suicidio. In Italia il telegiornale dà la notizia la sera dopo, ma senza dire molto, anzi nulla di preciso. Tutti i giornali di Praga dedicano oggi grande rilievo al tragico episodio dello studente Jan Palacka, che ieri si è appiccato il fuoco dopo essersi cosparso di benzina. Le sue condizioni rimangono gravissime. Come vedete, non si sbilancia anche il telegiornale italiano, non si sa mai che qualcuno magari poi potesse arrabbiarsi. Però è evidente che la gente capisce quello che succede in Cecoslovacchia, viene ancora più minimizzato. La linea è il suicidio di un folle. E Jan Palach sopravvive per 73 terrificanti ore. Non possiamo immaginarla, la sofferenza di chi ha ustioni di terzo grado sull'85% del suo corpo. Mettete il dito su un accendino e moltiplicate per 1 milione quello che sentite. Un suo amico riesce a fargli visita, riesce a filmare e a registrare di nascosto una conversazione tra lui e una studentessa che gli chiede le motivazioni del suo gesto. Il filmato viene tenuto segreto per anni, viene conservato adesso tra i documenti del cosiddetto fondo Pelikan, l'archivio storico creato dall'attivista ceco Pelikan e donato nel 2000 alla Camera dei Deputati cecoslovacchi. È stato desecretato solo da poco, è un documento terribile, crudo, nel quale Jan risponde alle domande tra sofferenze atroci, si sente la fatica tremenda che fa per respirare. Noi non lo abbiamo neanche tradotto perché le motivazioni le abbiamo già dette. Vogliamo sentire la vera voce di Jan Palach, che se non volete magari fate un giro e tornate a sentire la radio tra un minuto se non ve la sentite. A s čím konkrétně? Zapálit se. Dobře, a kdy přestanete, nebo za jakých podmínek přestanete? Můžu vyzrušovat cenzuru. A co ještě? Zákaz rozširování zpráv. Každej se o to zajímá. Tohle to, co si udělal ty, to už úplně stačí, aby o tom věděl celý svět. No, buď mi neskromný. No, prostě, myslím si o sobě moc myslet. Člověk musí být proti tomu zrovna v té právě. Avete sentito? Questa è la voce di un ragazzo di 20 anni, sembra la voce di un vecchio, e invece è un ragazzo di 20 anni che si è dato fuoco per difendere la libertà del suo popolo. La cosa che lascia più sgomenti è la sua determinazione, cioè si avverte nella sua voce la convinzione di avere agito per il giusto. E nelle 73 ore della sua agonia lui riceve informazioni su quello che ha scatenato il suo gesto, e la dottoressa, che è la prima a soccorrerlo, gli porta i messaggi di solidarietà della gente, gli legge gli articoli che nel mondo riportano l'accaduto. Lui muore, Jan Palach muore il 19 gennaio del 69, ma è consapevole quando muore, che il suo gesto ha ottenuto l'effetto che lui desiderava, cioè essere il portavoce di un popolo oppresso. Jan Palach diventa un eroe nazionale. Al suo funerale il 25 gennaio arrivano da tutto il paese 600.000 persone, 600.000 che non hanno creduto alla versione del pazzo data dall'establishment, e ci sono delle riprese televisive che mostrano ragazzi, anziani, donne, bambini che piangono disperati, che portano sulla bara del loro martire una quantità incredibile di fiori. I sovietici non hanno potuto evitare questo spettacolo di popolo, hanno paura di rappresaglie, tanto loro il loro piano ce l'hanno già. Nei giorni successivi parte una campagna denigratoria sistematica nei confronti di Jan Palach, che viene sparsa la voce che il suo gesto era contro la guerra in Vietnam. Insomma, è un regime che ha fatto della disinformazione per decenni il suo punto di forza. L'assurdità delle false notizie non regge, allora i sovietici se ne inventano un'altra ancora più incredibile e dichiarano che lui non aveva intenzione di uccidersi, aveva acquistato il cosiddetto fuoco freddo, un liquido che si infiamma ma che non brucia, e poi qualcuno aveva sostituito, per fargli uno scherzo, quel liquido con della benzina. Insomma, vedete come si ragionava e come ci si muoveva in quegli anni. Naturalmente nessuno ci crede, il suo gesto viene capito non solo dalla comunità cecoslovacca ma da tutto il mondo libero. Purtroppo altri ragazzi in altri paesi, tutti sotto il giogo sovietico, seguono il suo esempio. Altri 7 diventeranno in altri posti dell'Europa dell'Est delle fiaccole umane, ma la repressione sovietica riuscirà a mettere a tacere questa tragica protesta. Di molti di questi non si avrà notizia se non molti anni dopo. Il gesto di Jan Palach ha mobilitato l'opinione pubblica mondiale. Anche Paolo VI il 26 gennaio parla in piazza San Pietro e ricorda il suo estremo sacrificio. Il teologo cattolico Joseph Zverina arriva perfino a scusare il suicidio, che di solito è deprecato dai credenti. Anche la Chiesa gli concede un perdono postumo. Il suo non fu un suicidio, ma un atto estremo di amore verso il prossimo. Si tolse la vita perché altri potessero vivere. E sappiate che in certi casi un suicida non scende all'inferno, perché non sempre Dio è dispiaciuto quando un uomo si toglie il suo bene supremo, la vita. Naturalmente i sovietici cercano di fare dimenticare Jan Palach o di gettare del fango su di lui, ma non ce la fanno. A lui vengono dedicate strade, scuole, nascono associazioni a suo nome. E dopo la fine del comunismo, una delle piazze principali di Praga, che prima si chiamava Piazza dell'Armata Rossa, diventa Piazza Jan Palach. Il suo gesto rimane nel cuore di tutti, è oggetto di dibattiti, di documentari. È una sua ex compagna di scuola, Agnieszka Holland, che diventa una regista e nel 2013 realizza Burning Bush, una grande ricostruzione del tentativo sovietico di denigrare questo giovane eroe, perché è importante non dimenticare. È una frase che sentiamo dire spesso, ma la sentiamo dire in genere a senso unico. Io la dico di qua e di là: non dimenticare e anche ricordare le vere motivazioni di Jan Palach. Lo conferma per esempio il professor Sergio Corduas, che è docente di lingua e letteratura ceca all'Università Ca' Foscari di Venezia. Lo avevamo sentito anche prima. Il gesto di Palach comunque certamente è un gesto disperato, come non può esserlo, ma non va preso come un gesto di un esaltato, Va preso come un gesto di fermissima condanna e come una promessa. Io vorrei ricordare a chi ascolta che c'era uno slogan di Palach, e che in ceco suona Vierni e Zostaneme, cioè resteremo fedeli. Ci sono storie che spesso sono sconosciute o dimenticate o cercano di farcele dimenticare, e invece noi vogliamo ricordarle, di colpi d'ala meravigliosi fatti non per se stessi ma per la libertà, per un popolo, ali che in questo caso, ahimè, hanno